Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi segnalo qualche titolo finale per il rush sulle strenne. Comincio da un bel libro sulla Sicilia che si intitola appunto Libro Siciliano di Matteo Collura, che ha scritto i testi, e Melo Minnella, che è il fotografo di cui pubblichiamo in questo libro le immagini. Il libro è pubblicato da Flaccovio, 176 pagine, 65 euro. Cosa emerge dal libro? Che insomma ci sono 10, 100, 1000 Sicilie, un'isola che è un concentrato di opposti e un crocevia di contrari. Opposti e contrari che vengono qua in questo libro illustrati da una serie di bellissime immagini, appunto quelle di Melo Minnella, che cercano di catturare qualcuna di queste Sicilie, se non almeno tutte. Ma facciamoci guidare da uno degli autori nel percorso sull'isola. Buongiorno a Matteo Collura. Buongiorno. Matteo Collura, nel suo libro, nel libro suo e di Melo Minnella, nei suoi testi, lei più volte mi pare sottolinea il fatto che è difficile definire l'identità della Sicilia. Come mai è questa difficoltà? Beh, perché è una terra di frontiera. La Sicilia è la regione che guarda più a sud, la regione d'Europa, diciamo, che guarda più a sud, ma nello stesso tempo per i paesi appunto che vengono visti dalla Sicilia è il nord che comincia, diciamo, l'Europa, no? Ecco, quindi c'è questa, è stata sempre una sorta di zattera incastonata nel Mediterraneo, quindi luogo da cui si può guardare, si può arrivare, si può partire, insomma, allora è difficile stabilire che cosa sia, anche perché è stata abitata, posseduta, conquistata, ecco, forse è meglio dire così, ma forse interamente mai posseduta da tante potenze, quindi tante civiltà, tante culture. Ecco, a proposito della regione frontiera, lei scrive regione frontiera meravigliosa e parossistica. Che cosa comporta per la Sicilia e direi anche per i siciliani questo essere frontiera? Ma per esempio, che so, io penso che un libro intitolato Libro Lombardo o Libro Pugliese o Libro Campano non si potrebbe proporre editorialmente, mentre il libro siciliano regge. Questo già spiega che la Sicilia ha una sua particolarità, è una sorta di continente ancora da esplorare, anche se è stato pubblicato tantissimo sulla Sicilia, sono stati fatti non soltanto libri, romanzi, studi di tipo saggistico, ma anche nel cinema, nella fotografia, però sembra che ci sia qualcosa che sfugga della Sicilia, ed è proprio questo il suo paradosso, diciamo, il suo essere regione paradossale. Un'altra definizione che lei dà della Sicilia è di una regione riarsa anche nell'anima, e poi fa una divagazione su una passeggiata possibile a Palermo, in cui appunto una passeggiata che può dare l'impressione, come lei scrive, di muoversi tra i viali di un animatissimo cimitero, in cui il susseguirsi degli edifici mausoleo parla di un passato propriamente passato e che per questo cade a pezzi. Ecco, che cosa questa Sicilia riarsa, che cosa implica? Si riarsa anche nell'anima, è perché intanto è risaputo che la Sicilia è una specie di annuncio d'Africa per quanto riguarda, diciamo, il clima, e non soltanto. Ecco, questo può anche naturalmente riferirsi un po' alla sua storia. È un'isola assetata non soltanto di acqua, diciamo, nel senso più proprio del termine, ma di giustizia, di verità storica, insomma, di buona politica, di buona amministrazione. E Palermo è un po' effettivamente la sua sintesi. Palermo è una grandissima città, ma un centro storico che cade a pezzi proprio perché è un cimitero della storia. Lì la storia ha naufragato e i resti li si trovano in questi palazzi che si credono ancora, diciamo, animati, abitati, ma in realtà sono occhiaie vuote, insomma, sono vestigia ormai, soltanto quelle, insomma, ecco. E poi c'è un capitolo finale che apre l'ottimismo, una Sicilia senza mafia. Lei spera in un cambiamento di clima culturale e psicologico nei confronti della mafia. Ecco, dove trova traccia di questo cambiamento nella Sicilia di oggi? Ma questo ce lo siamo chiesti io, che sono l'autore dei testi, Melo Minnella, che è l'autore delle splendide fotografie di questo volume, l'editore che è Sergio Flaccovio, un editore e un libraio famoso. Ecco, ce lo siamo chiesto. Dove lo troviamo? Beh, lo troviamo intanto nei giovani, perché è lì che bisogna puntare se si vuole sradicare, diciamo, il fenomeno della malapianta mafiosa. L'addio pizzo, per esempio, è qualcosa di interessante che va incoraggiato. Se lo Stato riesce a proteggere coloro i quali si ribellano all'imposizione del pizzo, ecco, questo potrebbe essere un primo passo importantissimo per debellare la mafia. Poi, dopo gli attentati a Falcone e Borsellino, i palermitani, che erano quelli più toccati, diciamo, da questo fenomeno, non hanno più potuto dire: beh, tanto non mi riguarda, si ammazzano tra loro, perché in quel caso salta un pezzo di autostrada, salta un pezzo di condominio, e quindi chiunque può venire, diciamo, toccato dalle malefatte mafiose. Ecco, quindi ormai bisogna fare conti con una realtà che non riguarda più soltanto loro, ecco, si ammazzano tra loro, ma questi ammazzano anche noi, quindi dobbiamo difenderci. Bene, grazie a Matteo Collura, autore con Melo Minnella di Libro Siciliano. Grazie a voi. Un altro libro strena che ci porta invece a Milano è Passeggiate milanesi, curato da Roberta Cordani, edizioni Celip, 216 pagine, 59 euro. Anche questo è un bellissimo libro di immagini e di testi che ci invitano a scoprire, a meglio, a riscoprire Milano. Qui però, a differenza del libro siciliano, la penna è di vari autori che in brevi interviste o scritti affrontano ciascuno un specifico tema su Milano. Per esempio si parla del centro storico, si parla ampiamente delle nuove realizzazioni urbanistiche e architettoniche a partire dal Museo del Novecento inaugurato un anno fa, si parla del quadrilatero della moda, delle vie dei bibliofili e di tanti altri temi che qui vengono approfonditi. E ne emerge dal libro di Roberta Cordani una città veramente sorprendente. Non dovrei dirlo io che a Milano ci vivo, ma insomma effettivamente tante sorprese sfatano il mito di una città grigia e noiosa. Anzi, da questo libro Milano risulta ricca di iniziative, di novità, di sorprese. E quindi un libro adatto anche per i non milanesi, per invitarli a fare una scoperta, ma anche per i milanesi, perché troveranno la conferma che la loro è una grande città che non mancherà certo di confortarli. E se dovete fare un regalo a un amico straniero, ugualmente il libro si adatta, perché i testi sono anche in inglese. Abbiamo parlato di fotografie a proposito del libro siciliano, allora vi propongo un libro che apre una collana di 4 volumi dedicati alla storia della fotografia. Il primo volume si intitola La fotografia, le origini 1839-1890 ed è curato da Walter Guadagnini per Schirà, 49 euro, questo è un prezzo speciale fino al 31 dicembre. Ognuno di questi 4 volumi contiene alcuni saggi, qui ne troveremo 3, e una serie di monografie che in questo volume sono curate da Francesco Zanot. Naturalmente in questo primo volume siamo agli albori di un'arte nuova in mezzo a una vecchia civiltà, come definì la fotografia il fisico Gay Lussac. Una tecnica, quella della fotografia, che si accompagnò fin dai suoi esordi con l'interrogativo sul valore di quei prodotti, se le fotografie insomma fossero o meno paragonabili a delle vere e proprie opere d'arte, se si potesse dare un significato artistico alle immagini fotografiche. E quindi questo volume e quelli che seguiranno saranno un'occasione preziosa per gli appassionati per seguire fin dall'inizio la storia della fotografia in un percorso che al termine del quarto volume ci porterà al giorno d'oggi. Naturalmente i libri sono corredati da tante immagini, in questo caso immagini storiche, le immagini più importanti del periodo prese in considerazione, e dalle schede sui fotografi più importanti che hanno segnato in questo caso l'avvio della fotografia. Una sintesi fulminante della storia della fotografia la troviamo in un libro più ridotto, 46 pagine, 9 euro, sempre pubblicato da Schirà, scritto da uno dei grandi intellettuali del Novecento, Walter Benjamin. Si intitola Piccola storia della fotografia. Questa è un'opera del 1931 nella quale lo studioso, ripercorrendo la storia della fotografia, affronta appunto quel tema al quale ho accennato, cioè il tema del rapporto con l'arte, che viene qui approfondito attraverso l'esame di alcune immagini emblematiche nelle quali il filosofo prefigura l'inflazione di immagini nella quale siamo precipitati e le sue conseguenze aberranti. Il dilettante che torna a casa con un mucchio di scatti artistici originali è un tipo non meno sgradevole di un cacciatore che torna da una battuta con una quantità tale di selvaggina che solo il mercante potrà trarne vantaggio. E veramente sembra vicino il giorno in cui ci saranno più giornali illustrati che rivenditori di polli e fagiani. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Concludiamo questo 2011, anno del 150enario, con alcuni ultimi titoli. E vi segnalo innanzitutto un libro musicale di Giovanni Gavazzeni, Armando Torno e Carlo Vitali, O mia patria, storia musicale del Risorgimento tra inni, eroi e melodrammi. È pubblicato da Dalla Editore, 336 pagine, 18 euro. Il Risorgimento, dimostrano i nostri autori, ha avuto una strepitosa colonna sonora, anzi... Il melodramma, come recita uno dei capitoli dell'opera, ha fatto l'unità d'Italia. Il libro esamina il contributo in particolare di Rossini, Bellini, Donizetti e soprattutto Verdi, che viene qua considerato il padre musicale della patria. E di Verdi troviamo considerate non soltanto le opere che vengono più facilmente associate all'aspirazione unitaria, ma anche quelle che affrontano temi legati al potere e alle sue deformazioni, che non mancarono di suscitare grandi entusiasmi negli ambienti risorgimentali dell'epoca, per esempio l'opera I due Foscari. Questa invece era la cabaletta Cara Patria, già madre reina, tratta da Attila, sempre di Verdi, che non mancò di infiammare tutti gli spettatori. E poi nel libro si parla naturalmente del mondo dell'opera di quegli anni, riflettendo in particolare su un patriota musicista, Piero Maroncelli, e si chiude con un'utile tavola sinottica sugli sviluppi in quegli anni contemporanei della politica, della cultura e della musica. Una lettura poco tradizionale sul Risorgimento, che ci permette di scoprire, o meglio di riscoprire, un'interpretazione talvolta faziosa ma sempre molto appassionata su quel periodo, è costituita dalle pagine di Piero Gobetti e Antonio Gramsci, di cui Enrico Mannari presenta un'antologia intitolata appunto Sul Risorgimento, e pubblicata da Mind, 160 pagine, 16 euro. Sono tutte pagine importanti che hanno dato vita a un lungo dibattito, soprattutto sul tema dell'assenza delle masse popolari dai moti risorgimentali, sul ruolo di Cavour e su quello del Mezzogiorno. Sono pagine, dicevo, importanti, spesso più citate che lette, allora questa è un'ottima occasione per riempire una buona biblioteca del cittadino. Un'altra lettura insolita sul Risorgimento è quella di Nello Aiello, Taccuini del Risorgimento, pubblicato dalla Terza, 114 pagine, 14 euro. Queste sono 20 cronache sul campo di un famoso giornalista come Aiello, che si cala nei panni di un collega del 1861. Con le sue parole e molte immagini, Aiello va a rivisitare molti momenti di quel mitico 1861, cogliendo anche dei momenti meno noti. Per esempio, a un certo punto si parla di un pizzicagnolo fiorentino, il quale aveva collocato un busto in gesso di re Vittorio Emanuele su uno scaffale al centro di una mostra di salami, leggo dal libro. La scena rappresenta, ha dichiarato ai curiosi, perché le cronache sono ovviamente al presente, il sovrano in mezzo ai suoi sudditi. Ma poi ci sono anche argomenti più drammatici, per esempio la cronaca della presa di posizione di Massimo D'Azeglio contro le indicazioni di Roma Capitale. D'Azeglio si chiede: perché non farne una città libera retta da un senato elettivo e lasciarla sotto l'egida del Papa? Ci siamo fatti forse convincere da quel pericoloso idealista che è Giuseppe Mazzini? E quando ci decideremo a farci dire semplicemente dai napoletani se ci vogliono o ci rifiutano come loro governanti? Insomma, temi sempre attuali che dimostrano come il dibattito sul Risorgimento sia stato esplosivo fin dall'inizio. E a proposito di Mazzini, testé citato, vi segnalo il libro di un giudice scrittore, Giancarlo De Cataldo, che sempre con la Terza pubblica Il maestro, il terrorista, il terrone, 136 pagine, 14 euro. Qui il maestro è appunto Giuseppe Mazzini, che ha dato vita a un filone risorgimentale minoritario e sconfitta, è sconfitto, ma ugualmente decisivo per forgiare quello che siamo, anche se lo stesso Mazzini, scrive De Cataldo, fu accompagnato da un'autentica leggenda nera. E qui De Cataldo ci dà una versione assai poco edulcorata del Risorgimento e soprattutto delle tensioni che lo attraversarono e che divisero i suoi grandi protagonisti, come dimostrano queste righe che adesso vi propongo. Una cosa di cui siamo fermamente convinti è che i nostri grandi eroi, tre eroi e mezzo, il mezzo è naturalmente Mazzini, si amassero, rispettassero, venerassero, che avessero lavorato come un solo uomo per fare la nazione prima e poi renderla grande. Niente di più sbagliato, niente di più tragicamente sbagliato. Quei quattro si detestavano, giunsero persino ad odiarsi. Cavour condannò ripetutamente a morte Mazzini. Il re si appoggiò ora all'uno, ora all'altro per farsi il suo proprio risorgimento, quasi sempre senza capirci un accidente e rischiando di mandare a monte il gioco grosso. Garibaldi e Mazzini non si parlarono per anni. Il generale scaricò sul vecchio amico di un tempo accuse false e roventi e Mazzini non rispose mai e... Insomma, il nostro risorgimento, al pari di tutte le lotte di liberazione nazionale, è stata un'avventura rivoluzionaria fatta di sangue, epica, tradimento, calcolo politico, ingenuità spontanea, rovesciamento di alleanze, opportunismo, trasformismo e persino terrorismo. Mazzini ne incarnava l'anima più pura, libera da ogni compromesso, intransigente eppure sensibile, duttile, realista. E nello stesso tempo era un sanguinario della specie più scatenata. Gli altri protagonisti sono il terrorista, cioè Felice Orsini, l'autore dell'attentato a Napoleone III, che secondo De Cataldo spaventò a tal punto Napoleone III da indurlo a schierarsi con Cavour per evitare guai peggiori, e il terrone, cioè Carlo Pisacane, il patriota, la sfortunata spedizione di Sapri. Un altro protagonista del Risorgimento, in un libro di uno scrittore famoso anche per i suoi libri per ragazzi, è quello di Mino Milani, che ripropone Vita e morte di Nino Bixio con Mursi a 198 pagine, 16 euro. Come nota Beppe Benvenuto nella prefazione, questo libro ha un importante valore letterario ed offre della spigolosa personalità di Bixio un'interpretazione possibilmente equanime anche nei confronti di episodi molto discussi come il famoso eccidio di Bronte, e anche viene spiegato un libro marinaro, anzi conradiano per usare il termine usato nel libro stesso, che segnala il grande legame di Bixio con il mare e con le navi, a bordo di una delle quali morirà. Poi c'è un libro dalla parte dei ribelli, di chi non accettò l'unificazione, ed è l'ultimo libro di Giordano Bruno Guerri, Il bosco nel cuore, lotte e amori delle brigantesse che difesero il sud, pubblicato da Mondadori, 224 pagine, 20 euro. Già Guerri l'anno scorso ha pubblicato un altro libro piuttosto equanime, devo dire, sul fenomeno del brigantaggio nel sud, e qui approfondisce un aspetto di quel fenomeno, quello appunto delle brigantesse, mogli, madri, figlie, delle quali alcune, scrive Guerri, rimasero schiacciate dal loro destino, altre hanno divorato la vita, dimostrando il coraggio e l'intraprendenza di vere guerriere, spinte dall'amore per un uomo, per un figlio, costrette dalla necessità di difendere il loro mondo e animate da un dignitoso amor proprio. Guerri qui conferma la tesi espressa già da De Cataldo, e cioè che il Risorgimento italiano fu un'autentica guerra civile, scrive Guerri, con rappresaglie, saccheggi e fucilazioni sommarie dall'una e dall'altra parte. E di questa guerra civile troviamo qui alcune protagoniste, tra le più coraggiose e spericolate, che ci danno un quadro di quegli anni diverso, certo, dalla geografia e dalla retorica. Concludiamo questa carrellata su un anno di un importante anniversario ricordando tre personaggi di cui quest'anno abbiamo ricordato una scadenza particolare. La prima è Cavour, di cui ricordiamo il 150esimo della morte. In questa occasione, tra altri libri che ho già segnalato, vi ricordo da ultimo il libro Cavour, Vita dell'uomo che fece l'Italia, l'autore Giorgio Dell'Arti, pubblicato da Marsilio, 474 pagine, 12,90 euro. Un libro insolito, molto godibile e leggibile, perché è un libro intervista, di auto-intervista, nella quale la vita di Cavour viene scandita in diverse puntate che sono state pubblicate sulla stampa, in cui socraticamente un misterioso personaggio fa delle domande a Dell'Arti e questi sviluppa la vita appunto del conte. 100 anni fa invece moriva Antonio Fogazzaro, il grande scrittore di Vicenza, e in questa occasione vi segnalo che proprio in quella città, fino all'8 gennaio, la Biblioteca Bertoliana è aperta la mostra Il segreto di Fogazzaro, vita e fortuna di uno scrittore nel mondo. È anche uscito un libro di Marco Cavalli, Fogazzaro in tasca, 110 pagine, 12 euro, pubblicato da Angelo Colla. Qui troviamo un giudizio molto sereno sull'autore, di Piccolo Mondo Antico, considerato unanimemente, dice l'autore, un poeta mediocre e un drammaturgo di scarso talento. È un giudizio severo che penalizza la realtà contraddittoria, almeno così la definisce Cavalli in questo libro, dello scrittore vicentino. E quindi questo libro ci permette di scoprire, attraverso una sorta di abbecedario, in varie voci la carriera e la realtà di uno scrittore significativo. Ricordo che di Fogazzaro quest'anno sono usciti alcuni dei titoli più importanti: Il Santo, pubblicato da Marco Valerio, 18 euro, 362 pagine, due edizioni di Malombra, uno di Dalai, 9,90 euro, e uno di Feltrinelli, 8,50 euro, e naturalmente Piccolo Mondo Antico e Piccolo Mondo Moderno, entrambi pubblicati da Rizzoli al prezzo di 8,50 euro. Ultimo anniversario, il cinquantenario della morte di Luigi Einaudi. In questa occasione vi segnalo l'antologia Il Lode del Profitto e altri scritti, curata da Alberto Giordano e pubblicata da IBL Libri, 158 pagine, 18 euro. Questa è un'efficace sintesi del pensiero del grande studioso liberale che fu anche il primo presidente della Repubblica tra il 1948 e il 1955. Troviamo qua soprattutto gli scritti nei quali Einaudi difende il mercato e ne sottolinea le grandi virtù. Naturalmente quando sia mercato vero, difeso quindi dalle minacce costanti provenienti dal protezionismo che viene invocato dai vari settori e soprattutto dai monopoli che erano una delle bestie nere di Einaudi. Un mercato libero ed efficiente, scrive il curatore, costituiva per Einaudi il miglior veicolo di espressione della creatività umana, ma esso risultava a propria volta il prodotto consapevole degli sforzi compiuti da individui moralmente liberi. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento a domenica prossima. Buona settimana a tutti.